Animale stravagante davvero. Adina mama, di sposarmi è contenta e differire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale, mi spezzerei la testa di mia mano. Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto! Cos'hai che ti disperi? Io mi dispero perché, perché non ho danaro, ne so dove trovarne. Scimunito, se danari non hai, fatti soldato e 20 scudi avrai. Adesso sul momento che fardeggio e poi con tanti glori onor al reggimento. Ma non è, non è ambizione che seduce questo cor. L'amore in guarnitore non ti può ancora, no, no, no, no, non ti può ancora.